Allora, oggi sono all'aeroporto di Bologna, un aeroporto trasformato in una trattoria dove non ci sono i posti a sedere per le persone, bambini, adulti, tutti buttati a terra, perché l'aeroporto ha pensato bene di non creare dei posti a sedere, delle aree per i viaggiatori, ma di fare solo negozi e trattorie. Ecco, guardate la scena, è inquietante. Si può essere una città europea con un aeroporto così?